ferro e indegno il sen ti passerò. Folle, che dico? Che fa? Con chi mi sdegno? Il resto di noi io solo scellerato. In queste vene corpi o ragion l'immergerò. Sì, mori, dici da sventurato. Grrrr!